Per calcolare la frequenza bisogna trasformare la funzione. Trasformare la funzione. Trasformare la funzione. Trasformare la funzione. Trasformare. Trasformazione. Trasformare la funzione. Trasformare la funzione. Trasformare la funzione. In questo modo. Per calcolare la frequenza bisogna trasformare la funzione. Trasformare la funzione. Trasformare la funzione. Trasformare la funzione. Trasformare. Trasformazione. Trasformare la funzione. Trasformare la funzione. Trasformare la funzione. In questo modo. Trasformare la funzione. Trasformare, trasformazione, trasformare, la funzione, trasformare, trasformazione, trasformare, la funzione, trasformare, trasformazione, trasformare, la funzione. In questo modo.